Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di testo, Il Falsario, il titolo La lotta quotidiana contro Satana. E il metodo che useremo sarà quello del leggere e del commentare, e quindi leggeremo tutto il libro dal primo capitolo fino all'ultimo capitolo, sono in tutto 22 capitoli, e vorrei iniziare, cari amici, intanto per iniziare intanto presentando l'obiettivo del libro. L'obiettivo del libro non è, questo non è un libro sul demonio, dunque questa è la prima cosa da capire, non è un libro sul demonio. Perché a me il demonio non interessa, a me questo è un libro sulla lotta contro il demonio, è un libro che mette in evidenza la potenza di Dio che ha trionfato sul demonio. Il cuore di questo libro è sicuramente la vittoria di Cristo su Satana, perché non si comprenderebbe la redenzione se non con la vittoria di Cristo sull'impero del male. E quindi, a partire da questa vittoria di Cristo sull'impero del male, noi analizziamo, cari amici, il nostro combattimento spirituale, che deve naturalmente anch'esso deve naturalmente concentrarsi sulla lotta contro il male. E quindi non è un libro sul demonio, ma un libro sul combattimento spirituale, ed è un combattimento spirituale che ci riguarda ogni giorno nella nostra vita quotidiana. Per quale motivo? Perché la nostra attenzione sarà soprattutto, cari amici, sulla tentazione. Cioè, la tentazione è una realtà che riguarda la nostra vita quotidiana. Ogni giorno, in tante situazioni della vita, Satana ci tenta, Satana cerca di insidiarci, e quindi è molto importante per noi innanzitutto scoprirlo, perché Satana si nasconde. È molto importante scoprirlo, è molto importante imparare l'arte di scoprire il maligno per poi combatterlo e vincerlo. Ma quando si è riusciti a scoprire il maligno, si è già sulla strada della vittoria. Cioè, il demonio, una volta che si è scoperto, è facile vincerlo. Invece, il più delle volte, quando noi siamo affascinati dalla tentazione, non riusciamo a scoprire il demonio, perché si nasconde. Si nasconde, e noi veniamo adescati dalla sua straordinaria capacità di presentare il male sotto forma di bene, per cui noi neanche il demonio ci porta in situazioni e agisce in situazioni quando noi neanche ci rendiamo conto, neanche sospettiamo che lui sia presente, neanche pensiamo che sia lui che ha creato quelle situazioni, e neanche supponiamo che sia stato lui a porre determinate trappole, a creare determinati trabocchetti, e quindi come zanzara impazzita andiamo verso quella luce che poi finirà per, quella luce falsa luce che poi finirà per bruciarci. Ecco dunque il nucleo ispiratore di questo libro, che è appunto la tentazione. La tentazione, che è una parte fondamentale della nostra vita, fa parte di quelle situazioni della vita dove noi molte volte siamo soccombenti, e quindi noi cercheremo di mostrare come nella tentazione dobbiamo scoprire la presenza del maligno. Dobbiamo capire la sua arte raffinatissima di incantarci, di insidiarci, di farci suoi a nostra insaputa, e la sua capacità di renderci prigionieri, schiavi suoi, anche quando noi crediamo di essere liberi. Perciò tutto il nostro percorso che faremo, un percorso spirituale, ha nulla a che fare con altri studi sul demonio, con altri programmi che ci sono qui a Radio Maria, utilissimi certamente, ma quelli per esempio che riguardano diciamo così, l'attività di un esorcista così ben portata avanti da Padre Amort qui in questa radio, e tutti quei fenomeni che sono connessi con un Satana che disturba, eccetera. Questo è un settore del quale anche noi ci occuperemo, ma direi in una forma marginale, proprio perché è un settore che già qui viene abbondantemente illustrato, mentre lì si tratterebbe un po' di un'attività del demonio, non so come dire, più straordinaria, mentre la tentazione è la sua attività ordinaria. Noi ci occuperemo di questo, quindi, soprattutto della tentazione, della capacità che ha il demonio nella tentazione di ingannarci e di farci suoi. Naturalmente ci occuperemo anche dei mezzi per affrontarlo, per combatterlo e per vincerlo. Il fine ultimo di tutte le nostre riflessioni, cari amici, è quello di renderci più avveduti, più prudenti, più sapienti, più scaltri, e come dice Gesù, non siate semplici come colombe e prudenti come serpenti, cioè saper bene dove stare molto attenti dove si mettono i piedi, e quindi più armati nella battaglia, cioè più armati nel combattimento spirituale, perché la posta in gioco è altissima, è la salvezza eterna della nostra anima. Vorrei, cari amici, spiegarvi un po' meglio il titolo di questo libro, che è intitolato Il Falsario. Il demonio ha molti nomi nella Bibbia, moltissimi. Non c'è quello di Lucifero che viene attribuito al demonio semplicemente perché attraverso la riflessione teologica Lucifero è supposto come l'angelo più luminoso, l'angelo che era sotto il profilo della creazione, era per natura superiore a tutti gli altri, ma che poi appunto non si è sottomesso a Dio. Ecco dunque il motivo per cui è stato chiamato Lucifero. In realtà non c'è il nome di Lucifero né nell'Antico né nel Nuovo Testamento. Il demonio ha tantissimi nomi e tantissime immagini, noi le prenderemo in esame tante, no? È chiamato il principe delle tenebre, l'avversario di Dio, il nemico dell'uomo, Satana, il diavolo, il demonio, il tentatore, viene chiamato anche trascinato con immagini che conosciamo tutti, quella del serpente, quella del drago, quella del leone ruggente, anche con l'immagine del falso angelo di luce. Tantissime sono i nomi e le immagini bibliche con cui si contrassegna Satana. E fra l'altro nel mio libro, la parola Satana, vedrete che è sempre scritta con la lettera minuscola, anche se a rigore avrei dovuto scriverla con la lettera maiuscola, no? Il motivo, ve lo dico subito, non è un errore di distrazione, neanche di ortografia. Ho voluto coscientemente usare la lettera minuscola per umiliarlo, perché non mi andava di scriverlo con la lettera maiuscola, no? Satana sarebbe il nome proprio del demonio, cioè colui che si oppone a Dio, l'avversario. L'avversario, il nemico di Dio, questo è il suo nome proprio. Noi nel nostro libro l'abbiamo chiamato Il Falsario. Per quale motivo, cari amici? Perché il nostro è un libro soprattutto sulla tentazione. E la tentazione è sempre una mistificazione, cioè un'attività con la quale Satana ti presenta il male sotto forma, ti presenta il male sotto forma di bene. E tu, illudendoti che sia un bene per te, ne rimani attirato e ne rimani prigioniero. Ti presenta una mela bella a vedersi, ma la mela è avvelenata. Ed è anche questo, cari amici, il falsario, quindi è colui che cambia le carte in tavola, è colui che ti inganna, è l'ingannatore per eccellenza, soprattutto nella tentazione. E come immagine della copertina, se quando la prenderete in mano, vedrete che c'è raffigurata la tentazione di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, la tentazione immortalata dal Masaccio nella cappella Brancacci a Firenze, dove appunto è famosissimo questo affresco scritto da, dipinto da Masaccio ancora ventottenne, quindi un genio morto prematuramente. Il Masaccio, era un uomo molto religioso, era seguace del Savonarola, un uomo Masaccio di grandissime idealità religiose. Evidentemente, andando anche alle prediche del Savonarola, aveva imparato a leggere la Bibbia in termini, non so come dire, in termini altamente etici, no? E Masaccio, che qui realizza uno dei suoi massimi capolavori nel dipingere la tentazione di Adamo ed Eva, dipinge il serpente sopra Eva, c'è il serpente che ha la testa di Eva, cioè invece di avere la testa del serpente ha la testa di Eva. E qui naturalmente un colpo di genio del Masaccio, non sappiamo da chi abbia preso questa idea così profonda, che è questa in realtà, cioè che Satana non si presenta mai con la sua faccia di male. Satana normalmente nella tentazione non si presenta mai come qualcuno che fa paura, come qualcuno che terrorizza, come qualcuno che ci fa spaventare. Si camuffa sotto l'aspetto di creature belle che diventano delle false luci per noi e con le quali ci cattura. Qui il Masaccio voleva indicare appunto che il demonio si servì di Eva per sedurre Adamo e quindi si presentò ad Adamo il demonio con la faccia di Eva. E questo è un messaggio ben preciso, e cioè il demonio falsa la sua identità. Si presenta sempre con la faccia del buono amico, si presenta con tutte le facce, perfino con quella del frate o del prete o del vescovo. Mi ricordo, leggendo per esempio il diario di Veronica Giuliani, che forse avete sentito anche qui a Radio Maria, quando appunto Veronica Giuliani andò a confessarsi e c'era nel confessionale il vescovo, e mentre poi venne a sapere che in quella medesima ora il vescovo era in tutt'altra parte, mentre si confessava il vescovo gli dava dei consigli perversi. Ecco, era il demonio travestito da vescovo. Sembrano queste delle, non so come, dei racconti sciocchi, dei racconti mitici, in realtà sono molto veri. D'altra parte, tutti voi conoscete quel racconto che ci fa la veggente di Medjugorje Mirjana, la quale appunto quando era ancora giovanissima, parlo di forse di 18, di 16 anni fa, era a Sarajevo e stava aspettando l'apparizione della Madonna, e venne in casa un giovane molto bello, molto seducente, il quale incominciò a parlarle cercando di toglierla dalla Madonna, cercando di dire ma cosa passi la tua vita a sentire quella, ma goditi la vita, ma eccetera eccetera. Poi improvvisamente il giovane scomparve e apparve la Madonna, e la Madonna le disse: vedi Miriano, ho voluto che tu sapessi come il demonio si presenta, non si presenta sotto forme spaventose, ma sotto forme seducenti per sedurvi. Ecco, vi ho raccontato questi due aneddoti per giustificare la scelta del Masaccio. Il Masaccio, dipingendo il demonio, il serpente con la testa di Eva, ha voluto, a mio parere, affermare una grande verità, che molte volte il demonio si presenta a noi con volti rispettabilissimi. D'altra parte anche la letteratura ha sfruttato molto questo filone. Cioè il demonio si presenta molte volte sotto i volti del perbenismo, no? della volpe e il gatto, no? dei bravi amici. Ecco, pensate per esempio l'amico che ti dà la pasticca, ecco, si presenta sotto il nome dell'amicizia, si presenta sotto il nome del benefattore. Si presenta, il male si presenta, ecco, diciamo l'espressione incontestabile, il male si presenta sotto forma di bene. Per quale motivo il male si presenta sotto forma di bene? Per quale motivo il demonio è costretto in qualche modo a presentarsi sotto forma di bene, ma la ragione è molto semplice. È perché l'uomo è orientato al bene. Cioè l'uomo cerca la felicità. L'uomo cerca il bene. Se il demonio si presentasse per quello che è, cioè un essere infelice, un essere disperato, un essere che odia, avrebbe pochissimi seguaci. Avrebbe pochissimi seguaci. Allora è chiaro che per lui è fondamentale, per avere successo, presentarsi mascherato. Lui cerca di esattamente come avviene la pesca. Come avviene la pesca? Se tu vuoi attirare il pesce sull'amo, devi mettere un'esca, qualcosa che piaccia al pesce. Se tu sull'amo non metti qualcosa che piace al pesce, il pesce non ha bocca. Se tu metti l'amo soltanto, di pesci non ne prendi neanche uno. Devi mettere l'esca. Così fa il demonio. Mette l'esca sull'amo e tu abbocchi, ma con l'abboccato rimani prigioniero. Questa è la sua tattica. La ragione è perché l'uomo è orientato al bene, l'uomo cerca la felicità, allora il demonio presenta i falsi beni, presenta le false felicità perché tu abbia da abboccare. Ecco dunque perché è il falsario. Questa espressione, il falsario, naturalmente ha una radice biblica molto solida. Questa espressione, il falsario, ha una radice biblica molto solida, addirittura si radica nella parola di Cristo, che dice appunto che Satana è omicida, è menzognero fin dal principio. Ecco, la parola menzognero, il falsario, il menzognero, è una definizione che di Satana ha dato Gesù Cristo. E poi il sottotitolo è la lotta quotidiana contro Satana. Io mi ricorderò sempre che amici, una volta non svelo nessun segreto di confessione naturalmente dicendo questo, mi ricordo una volta parlavo con un sacerdote, sono confidenze che molte volte ci facciamo noi sacerdoti, parlavo con un sacerdote che era molto tormentato dal demonio. Allora io dicevo: stai attento perché guarda che insomma, se non riesci oggi ci prova domani, ci prova dopodomani. Insomma, non farti illusioni perché se vede che c'è anche una sola qualche possibilità di fare breccia, se vede che tu sei solo un po' tentennante, finché non ti ha morsicato non molla l'osso. E mi ricordo che lui mi disse: ma è possibile, con tutti gli uomini che ci sono in questo mondo, penserà soltanto a me, mica Satana avrà il tempo da spendere soltanto per me. Mi meravigliò molto questa risposta, perché evidentemente prima di tutto non si rendeva conto che se Satana avesse del tempo da organizzare, cioè se il suo tempo fosse limitato, è chiaro che lo spenderebbe tutto per i sacerdoti. Quindi se c'è qualcuno che è nel bersaglio, comunque è un sacerdote, no? Ma poi comunque Satana, non bisogna dimenticare che Satana comunque ha la velocità del pensiero, quindi ha una capacità di tentare, di far del male, che è immensa, non dico che è infinita, ma certamente è immensa. E soprattutto ha a suo servizio una schiera illimitata di demoni. I demoni sono tanti. Voi mi chiederete già: ma dove fonda questa sua affermazione? Questa mia affermazione la fondo sul fatto che molte volte risulta anche dai Vangeli che tanti demoni posseggono una persona. Per esempio, quando Gesù appunto chiede il nome al demonio, quello risponde legione, cioè siamo una legione, siamo tanti in una persona sola. Quindi questo sta a indicare che se in tanti posseggono una persona sola, vuol dire che non voglio rimanere disoccupati. Comunque c'è anche un'indicazione, a mio parere, da non trascurare, perché se la Bibbia è parola di Dio, se nella Bibbia tutto va preso con grande attenzione. Quando il capitolo 12 dell'Apocalisse parla del dragone che è stato rovesciato qui sulla terra, lì è chiaro che il dragone è il serpente antico, lo dice San Giovanni, è il serpente antico Satana. San Giovanni, proprio in quel capitolo 12 dell'Apocalisse, ci dice chiaramente chi è il dragone rosso, è Satana, il serpente antico, e dice che cadendo dal cielo, quindi quando è stato sbarrato dal cielo, trascinò con sé, con la sua coda, un terzo delle stelle del cielo. Ora non voglio far della matematica, ma mi pare che lì la allusione a che un terzo degli angeli si siano ribellati col dragone mi pare che sia evidente. Quindi vorrei dire, sia Satana in persona ha una possibilità comunque di essere presente ovunque come vuole, e in più è coadiuvato dall'esercito del male. C'è un esercito del male che è formato dai demoni, dalle anime dannate, formato indubbiamente un esercito poderoso. C'è un esercito del male che è un esercito poderoso. E a questo riguardo non possiamo farci troppe illusioni di poter, perché faccio questo discorso? Perché nessuno di noi si illuda di poter scampare alla tentazione, così come si illude di poter scampare al fisco. Cioè, certo, se uno sta attento magari al fisco riesce a scampare, ma alla tentazione non riesce a scampare. Cioè l'esercito del male è così potente che la tua vigilanza nei confronti del nemico, della tua anima, deve essere quotidiana. Non per niente Gesù ci invita alla vigilanza, vigilate e pregate. C'è tutta una tradizione spirituale che parte fin dai Vangeli, nella quale siamo invitati alla vigilanza quotidiana. Il combattimento contro Satana, cari amici, non è qualche volta nella vita. Il combattimento contro Satana è quotidiano, ecco perché allora il sottotitolo è la lotta quotidiana contro Satana. D'altra parte noi questo lo sperimentiamo nella nostra vita, ci sono certamente dei giorni in cui il demonio disturba di più, non lo metto in dubbio, ci sono dei giorni in cui la tentazione è più intensa, ci sono dei giorni in cui il demonio disturba di più e ci sono anche dei momenti della vita in cui la tentazione è terribile. E pensiamo per esempio a Cristo tentato nel deserto e poi a Cristo tentato nel Getsemani. Quelli furono certamente gli apici della tentazione, però la lotta quotidiana contro Satana è veramente quotidiana. Noi ce ne accorgiamo quando ci alziamo al mattino, cioè al mattino quando noi ci alziamo già l'esercito delle preoccupazioni, delle angosce, degli scoraggiamenti cerca di assalirci. E il demonio cerca di occupare il nostro cuore, con le inquietudini, con i nervosismi, con l'ansietà per la vita, eccetera, cerca di prendere il posto di Dio. È una battaglia che dobbiamo fare fin dal mattino quando ci svegliamo. E quindi, anche se ci sono dei momenti in cui siamo più tentati di altri, anche se ci sono dei momenti in cui siamo più disturbati di altri, non c'è dubbio che la vigilanza nei confronti del maligno deve essere quotidiana. Anzi, vorrei dire che molte volte i suoi assalti, le sue tentazioni, i suoi trabocchetti sono inaspettati, perché noi pensiamo, ma sto passando un bel momento, un bel periodo, cioè sono ben lontano dal ritenere che ci sia qualcosa di qualche pericolo in vista, e invece improvvisamente tu ti trovi in grave pericolo. E ti trovi in grave pericolo perché sei preso di sorpresa, perché tu credevi che il demonio fosse andato in ferie o fosse andato a tentare altri e si fosse dimenticato di te. Caro amico, guardate che il demonio non si dimentica mai delle anime che sono in grazia di Dio. Casomai lascia stare quelle che sono in peccato mortale, quelle ormai le ha ben legate e sta tranquillo, va alla caccia delle altre. Quindi la vigilanza deve essere necessariamente quotidiana, cari amici. Guai a noi se la nostra vigilanza non fosse quotidiana. Guai a noi se non fosse quotidiana. Vi dicevo che molte volte le tentazioni sono improvvise. Sono improvvise, perché lui, anzi vorrei dire, questa naturalmente questa mattinata è introduttoria, stamattina faccio il titolo e il sottotitolo, domani faremo il primo capitolo, che è il primo capitolo intitolato La vita è una lotta. Vorrei dire che quando c'è un periodo in cui c'è bonaccia, quando c'è un periodo in cui sembra che vada tutto bene, quando c'è un periodo in cui tu pensi, ma il diavolo mi lascia un po' stare, ma tutto tranquillo, tutto va bene, sta tranquillo che lui sta scavandoti la fossa sotto i piedi senza che tu te ne accorga. Casomai è meno pericoloso quando tu senti il suo ringhio, quando tu senti la sua rabbia, no? E quando ti fai dispetti perché è arrabbiato, perché non gli vanno bene gli affari nei tuoi confronti, allora quando tu senti il suo ringhio, la sua rabbia, il suo disturbo, è molto meno pericoloso di quando tutto sembra tacere. Tutto vada bene, tu ti culli negli ozi di Capua, come Annibale, no? Ti culi negli ozi, magari se cominci a diventare un po' tiepido nella preghiera, incominci ad abbassare le armi, è lì che lui ti sferra la tentazione improvvisa. Quindi nessuno si illuda di avere dei tempi in cui il demonio lo lascia in pace. Ci sono i tempi in cui lui ti assalta più di altri momenti. E tu sei nella lotta, ma siccome sei nella lotta, è chiaro che sei vigilante, perché quando sei nella tentazione magari suderai sangue, comunque sai che hai di fronte il nemico e lo affronti. Quando lui è arrabbiato ti disturba, in quei momenti lì tu rallegrati, perché vuol dire che quando è arrabbiato ti disturba vuol dire che gli affari gli vanno male nei tuoi confronti, ma quando c'è tutto tranquillo, tutto silenzio, stai attento, perché è allora che lui lavora come una talpa sottoterra. Quelli sono i momenti più pericolosi. Quando si nasconde, quando tace, quando non c'è alito di vento, sta per scoppiare l'uragano, sta tendendo le trappole. E quindi bisogna essere sempre vigilanti. La lotta contro Satana, cari amici, è una lotta quotidiana, è una lotta che non dà nessuna possibilità di periodi di ferie, ecco. Ecco, io con questo avrei terminato l'introduzione al nostro libro Il Falsario. Da domani mattina iniziamo il primo capitolo intitolato